I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Parliamo di migranti e soprattutto dei soldi che l'Unione Europea ha messo a disposizione dei paesi, in primo luogo africani, ma anche della Turchia, per arginare il flusso dei migranti che ha travolto quest'estate non solo le frontiere dell'Unione Europea. La buona notizia riguarda il 1,8 miliardi che l'Unione Europea ha deciso di destinare a progetti di cooperazione per l'Africa e quindi direttamente con i paesi che sono poi la fonte dei flussi migratori e anche per la lotta ai trafficanti. In aggiunta, come chiarito dal presidente Juncker, vi sono altri 3 miliardi per la Turchia, che in questo momento è il grande bacino, l'hub delle rotte migratorie verso soprattutto l'area balcanica e poi del centro Europa. Le buone notizie però si fermano qui, perché il 1,8 miliardi destinato dall'Unione Europea dovrebbe affiancarsi a una somma analoga messa a disposizione o versata dai singoli stati. E su questo proprio non ci siamo. In questo momento i soldi messi a disposizione dai singoli paesi non superano i 100 milioni di euro. L'Italia è tra i maggiori donatori, ma con una quota di poco superiore ai 10 milioni. E a poco serve l'appello del ministro degli esteri dell'Europa, Federica Mogherini, quando dice non servono i muri, ma un'azione comune. Ecco, è sull'azione comune che ci permettiamo di dubitare. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Nel pianeta degli 0, la notizia di oggi è che rallenta la crescita congiunturale del PIL italiano. Più 0,2% nel terzo trimestre 2015, più 0,9% nei confronti del terzo trimestre corrispondente del 2014. Un po' meno di quello che ci si aspettava, e questo blocca la crescita acquisita per quest'anno a quota 0,6% e impone un'impennata del PIL nel quarto trimestre, se si vorrà raggiungere l'obiettivo fissato dal governo allo 0,9%. Lo 0,2% di oggi arriva dopo un brillante più 0,3% registrato invece nel secondo trimestre, un fatto che aveva acceso aspettative per un'ulteriore accelerazione nei mesi successivi, e invece oggi quelle aspettative risultano un po' raffreddate. Rimane il fatto però che a questo dato, che riguarda il periodo luglio-settembre, manca ancora la quota di crescita proveniente dai servizi e soprattutto dal turismo, che sarà rilevata nei prossimi giorni, e quella crescita sarà forte visto che ingloberà anche l'effetto Expo, che da solo vale complessivamente mezzo punto di PIL. È probabile quindi che l'Istat tra un paio di settimane possa correggere al rialzo lo 0,2% di oggi, rendendo più raggiungibile anche l'obiettivo annuale dello 0,9% di fine anno fissato dal governo. Nel dettaglio, la crescita del PIL italiano nel terzo trimestre è stata aiutata soprattutto dal mercato interno, mentre ha fatto da zavorra questa volta l'economia estera. Si sa che è in forte ripresa il settore dell'auto, che il farmaceutico è florido, così come l'agroalimentare, la chimica a più alto valore aggiunto. Vanno bene le macchine utensili, così come l'imballaggi e, come detto, il turismo. Ma è importante che non crolli la domanda internazionale. Non è un caso che anche il G20, che si apre questo fine settimana ad Antalya in Turchia, abbia al centro della propria discussione le preoccupazioni proprio per il rallentamento dell'economia globale. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.